confine tra le terre etiope e bizantine, io scoprì una città beata immersa nel fuoco. Esternamente era nuova, internamente antica, meravigliosa la sua terra, la sua aria fetida. I suoi alberi erano capovolti, qual appare l'effigie loro nello specchio dell'acqua. Le sue piante somigliavano al cuore di un sapiente, le radici in alto, i rami volti al basso. Quando infine il Signore della mia indole mi presentò al principe della vita e della corruzione, questi mi accolse con doni e lusinghe, volle educarmi e mi eresse una piccola cella. Ma quando ebbe misurato i suoi limiti e gli dispose di affidare un solo vantaggio, le quattro barriere e sette mansueti e le cinque porte e cinque ricercatori. Infine occhi spalancai dalla limpida vista e subito presi a ingozzarmi come bestia. Branchi di leoni io vedevo e di lagri e mandrie di mostri e animali da sola. Tutti di natura triste ma di fede assai lieta, grandi volatori ma dalla vista corta. Intenti in azioni o in desideri d'offesa erano presi unicamente dal cibo e dal sonno. Simili a oranghi viaggiavano per mesi e anni, ma immobili restavano come bestie da mola. Pur percorrendo un cammino interminabile, non facevano che ruotare intorno al loro sterco. E io, simile a demone o asino, a fiero giumenta, smanioso di agi, di cibo, di sonno e di voglie, senza posa vagavo per monti e deserti arrancando come gli animali più mesti. Se vuoi la verità, il mio cuore in quei luoghi fu presto ben sazio di questi occhi ingordi. Come abbagliato io ero e privo di scienza e vigore, né altra guida avevo che un cieco animale. Finalmente io fuggì quei pascoli e quei cammini, divenni bramoso di una guida e di una via. E un giorno, andando per uno stretto sentiero, all'improvviso io vidi attraverso le tenebre. Incontrai un vecchio gentile e luminoso, qual è un credente nelle tenebre dell'impietà. Era umile, amabile e misurato, arguto, elegante, profondo e garbato. Il suo tempo fluiva più veloce del nostro, la sua vecchiezza fioriva più di nuova primavera. Occhio era la sua anima intemerata, e il corpo, i sette organi e le sei cause si riducevano a un cuore. I suoi piedi erano di luce inviolata, l'ombra della schiena rifletteva il suo petto. Sovrastava i terreni orizzonti, su nulla appoggiando, era causa di spazio e spazio non prendeva. Gli dissi, o fiaccola delle mie notti, o messia che guarisce le mie febbri, donde lo splendore, la perfezione e la maestà che tu mostri, e tanta grazia e avvenenza e nobiltà. Di colpo fui libero dalle mie antiche radici e da fanciullo che ero mi ritrovai uomo. In tal modo la mia natura mutò forma e ancora una volta ripresi il cammino. Anni e anni io vagai in contemplazione, scostando uno a uno veli smisurati. Fui a Baghdad nel cuore del deserto, nel giardino del paradiso e nell'abisso dell'inferno. Il mio cuore era la fiaccola che rischiarava la via d'amore, la mia anima il naufrago del mare dello stupore. Ora per il bisogno bruciavo come l'aglio, ora mi accattavo come cipolla nel suo velo. Mi inebriavo della grazia, dell'intima effusione, o in dolorosa contrazione umiliavo il mio essere. Da quel velato labirinto, infine volai via, ma solo per ritrovare un nuovo velo sottilissimo. Era il velo dell'essenza, tutta luce inviolata, la cui esistenza è velata persino a me stesso. e quei vidi viandanti in moto perpetuo che salmodiavano «Signore, sprofondami nello stupore». La maestà dell'essere li aveva annientati, né altro studiavano che la scienza del distacco. Era il loro silenzio più ribelle dell'anima, la loro asprezza più dolce del miele. Liberi dagli artigli della vita in mare, affranchiti dall'onda del vecchio e del nuovo, nell'eternità s'erano per l'eterno annullati, cessando di chiedere il come e il perché. Il loro corpo non superava il regno di Adamo, ma la loro legge vigeva ai confini dell'universo. In totale ritiro nella cella del mistero, vivevano nella dipendenza e però indipendenti. In virtù dell'essere erano entrati nel nulla, infine degni di pronunziare il sì primordiale. Erano sfuggiti alla freccia della tribolazione, saranno liberati dall'onta dell'io. Erano schiavi, sì, ma come l'ombra della fenice. Erano viventi, ma come rocce di granito. Il tempio terreno aveva ridotto in macerie e gli occhi avevano consumati nel pianto. Le loro anime, tra tanti spiriti eccelsi, erano quaderni in cui leggevi: voi siete.